che scrivi, cosa scrivi e come fai a scrivere. Bella lei, don Mr. Beep. È regolare, faccio bene o faccio male. Non mi faccio bene perché non scaccio il male. Io lo caccio il male, sono un cacciatore di vecchie storie naufragate. Dagli amici alla famiglia, dal lavoro alle fidanzate. Tutto questo mi passa negli occhi, non posso più fare ritocchi. Il vecchio resta vecchio, aspetto solo che il valore raddoppi. Come fai a scrivere? Me lo chiedono. Non lo so, è il mio vivere, mi volevano geometra, architetto, progettavano un futuro. Non ho diplomi, ho laurea appesa al muro. 28 anni alle spalle, 28 lavori pacco. Lavacessi, bombolaio, lavapiatto il camallo. Ma la notte canto e ballo solo in camera. Odio quel che capita, metto la testa e chi la decapita. Ma come fai a sorridere? Te lo chiedo. Se non lo sai, sono io quello più ingenuo. Perché se lei mi chiedesse di essere un genio, ogni volta che lo sfrega avvererà un suo desiderio. Sono volgare, scazzone, ma sognatore. Il mio sogno è farvi fessi e mi risveglia malincuore. Ho il fiatone a interpretare il mio io per non reprimere. Sono messo male, ecco come faccio a scrivere. Come facciamo a scrivere? Neanche noi lo sappiamo. Amore per la musica, una vita da villano. Noi facciamo arte, di premi non ne prendiamo. Come fai a scrivere? Prendi una penna in mano. Come facciamo a scrivere? Neanche noi lo sappiamo. Amore per la musica, una vita da villano. Noi facciamo arte, di premi non ne prendiamo. Come fai a scrivere? Prendi una penna in mano. Che guardo Roma dall'ottavo piano. Il nuovo piano, scrivo, lo faccio senza fare baccano. Tutti dormono perché hanno un orario. La pena mi accompagna nella mia nuova vita. Da universitario sentono le mie canzoni, c'è chi piacciono a chi più. Mi chiedono ma i testi li scrivi sempre tu. Dico sempre che sono pensieri ed escono fuori. E come tali riescono anche a farlo da soli. Per scrivere così con metodo serve il credo. In quel credo non basta sapere bene l'alfabeto. Articoli e coniugazioni, tempi verbali, stronzate varie, sono solo un ricordo delle elementari. Nessuno mi ha detto fallo, ho voluto farlo da solo. Mi piaceva l'idea di come un uomo crea cose micidiali. La musica richiede un impegno, ricambia con un sostegno che non è degno neanche dei migliori assistenti sociali. Come facciamo a scrivere? Neanche noi lo sappiamo. Amore per la musica, una vita da villano. Noi facciamo arte, di premi non ne prendiamo. Come fai a scrivere? Prendi una penna in mano. Come facciamo a scrivere? Neanche noi lo sappiamo. Amore per la musica, una vita da villano. Noi facciamo arte, di premi non ne prendiamo. Come fai a scrivere? Prendi una penna in mano.